Rabba a tutti voi, grazie a Semi che ha organizzato questo bellissimo ciclo di lezioni e a tutto il Bet Michael. Sembra un pochino strano fare un intervento sulla Teshuvah dopo che abbiamo concluso, per così dire, la stagione della Teshuvah. In realtà, nel momento in cui si è verificata questa situazione, mi è venuta in mente una, non una storia, ma un aneddoto che si racconta in ambiente chassidico, che lo racconta, in realtà lo scrive, il sesto Rebbe di Lubavitch, che si chiamava Rabbi Yosef Yitzchak, era il suocero del Rebbe, e lui scrive che una volta, quando ancora abitavano proprio nella cittadina, nel villaggio Lubavitch in Russia, lui era molto giovane e aveva vissuto tutto il periodo del mese di Elul, delle Selichot, di Rosh Hashanah, dei giorni della Teshuvah, di Kippur, in maniera molto intensa, in maniera molto profonda. E dopo che finì il giorno del Kippur, il giorno di Kippur, venne da suo padre, che era all'epoca il Rebbe, il quinto Rebbe di Lubavitch, e disse: papà, è ora, come dire, dopo che abbiamo seguito tutto questo profondo e importante percorso legato alla Teshuvah, è ora. E il padre gli disse, adesso non mi ricordo se era proprio la sera dell'uscita di Kippur o l'indomani del Kippur, il padre gli disse: ora dobbiamo solo iniziare a fare Teshuvah. Cosa significa? Dopo Kippur dobbiamo solamente iniziare a fare Teshuvah. Allora ho pensato, nel contesto anche della nostra lezione, che in realtà è questo il vero dilemma che l'ebreo vive proprio in questi momenti, nei momenti in cui si esce fuori da un quadro, come se fossimo stati dentro a un acquario, no? Rinchiusi dentro la Kedushah dei giorni solenni, delle festività, della Teshuvah, dove tutto sembra molto idealistico, tutto sembra in fase di miglioramento, eccetera, eccetera, e poi torniamo alla vita normale, alla vita quotidiana, al mondo, rientriamo nella realtà, e molto spesso quello che accade è che si torna quasi come prima. È brutto dirlo, e sicuramente non volendo, però molto spesso sembra che questa è la realtà che si vive. E in questa, alla luce di questo, già la domanda che fece il giovane maestro Rabbi Yosef Yitzchak in quel momento al padre ha un altro sapore, come dire: ora come facciamo adesso a garantire che tutto ciò abbia una continuazione, un continuo? E il padre gli disse: ora dobbiamo solo iniziare a fare Teshuvah. Cioè significa che bisogna trovare in qualche maniera un modo per far sì che ciò che è stata la grande ispirazione, il grande entusiasmo della Teshuvah, come dicevo, nella stagione della Teshuvah, che abbia davvero un risvolto pratico quando si entra appunto di nuovo nel quotidiano. E allora forse non c'è momento migliore per parlare di Teshuvah se non proprio questo momento qui, in cui è concluso tutto il periodo festivo, abbiamo appena concluso il Rosh Chodesh del nuovo mese che viene dopo il mese delle festività, quindi siamo ufficialmente entrati nella normalità dell'anno, e ora ci chiediamo come possiamo portarci appresso questo bagaglio che abbiamo accumulato spiritualmente parlando nel corso del mese di Tishri. Ora, questa cosa, ho messo qualche fonte sui fogli, ma anche se non si segue sul testo va bene uguale, comunque leggo e traduco qualche fonte. Forse anche non è un caso il fatto che si apre tutta questa cosa, tutto questo discorso con la parashah di Bereshit. La parasha di Bereshit è la parasha nella quale si apre per la prima volta la necessità della Teshuvah. Noi associamo Bereshit con il rinnovo, però in realtà se ci pensiamo in Bereshit c'è il primo momento in cui serve la Teshuvah, perché è la parasha nella quale si racconta di Adam e Chavà che vanno contro l'istruzione, l'unica istruzione in quel contesto, che HaKadosh Baruch Hu gli aveva dato. Ok, quindi è lì che proprio si apre questa necessità, questa esigenza. Lì troviamo la debolezza dell'essere umano e noi stiamo cercando di trovare una soluzione per questa debolezza. Cosa dice la Torah? In realtà nel racconto stesso c'è una parola che viene ripetuta due volte, che potrebbe in qualche maniera nascondere una chiave. Cos'è questa parola? Allora, se avete il testo potete seguire, o comunque, come dicevo, lo leggo. Si tratta del momento in cui Adam aveva mangiato dall'albero, assieme e convinto da Chavà, e si accorgono, riconoscono della propria nudità, si vergognano di questa nudità e si nascondono. In quel momento la Torah dice, Vaikra Hashem Elohim El Ha'adam, il Signore Dio chiamò l'uomo, e poi dice che il Signore gli disse, Ayeka, dove sei? Lui si nascondeva, il Signore dice dove sei? Ora non entriamo nella domanda per quale motivo gli deve chiedere dove sei. Il Signore sa tutto. Forse entriamo un attimino perché c'è un aneddoto molto interessante su questo. Il 19 di Kislev, tra un mese e mezzo, un po' di più circa, si festeggia il giorno della liberazione del primo Rebbe di Chabad, il Rebbe Shneur Zalman, l'autore del Tania, dalla prigionia zarista. Colgo l'occasione per invitarvi all'evento che si terrà a Piazza Bologna in quella sera, poi vi mando indirizzo e orario. Quando lui si trovava nella prigione, non era per motivi, era per motivi spirituali, un grande ministro si travestì da semplice funzionario della prigione, guardia, quello che è, perché non voleva dimostrare chi fosse, e venne era una persona molto studiosa ed era molto curiosa di interagire e di parlare con il Rebbe Shneur Zalman di Liadi. E gli disse, Rabbino, io ho studiato la Bibbia, avrei una domanda da farle. Qual è la domanda? Ho studiato nella storia che quello che abbiamo citato adesso, che il Signore dice ad Adamo, dove sei? Non sapeva forse il Signore dove si trovava Adamo? Allora l'Alter Rebbe, come lo viene chiamato, gli ha risposto, gli dice, beh, c'è un commentatore famoso, Rashi, che dice che il senso della domanda non è perché avesse bisogno in realtà delle informazioni che gli mancavano, ma bensì semplicemente un modo di aprire una conversazione. Leikanesi mo bidvarim, per entrare nel discorso, così dice Rashi citando i nostri Chachamim. Allora lo studioso russo, non ebreo, disse, Rabbino, anche io ho visto questo commento, però volevo sentire una sua idea personale su questo problema. Allora a quel punto il Rebbe divenne molto serio e gli disse, in ogni momento della vita di una persona, HaKadosh Baruch Hu gli chiede dove sei. Quando una persona giunge a una certa età, e qui disse 53, non so lei, ma era esattamente l'età di quella persona, che non, in teoria non avrebbe avuto modo di saperlo, quando una persona giunge a una certa età, il Signore gli dice, Ayeka, dove sei? Cioè, dove è il punto in cui dovresti arrivare e dove sei nel percorso per arrivare a questo punto? Una persona si deve porre questa domanda ogni tanto e prendere atto di cosa dovrebbe fare davvero. E lui rimase molto impresso, eccetera. Questa era la storia della Ieca, dove sei? Allora il Signore chiede, torniamo alla nostra citazione, il Signore chiede ad Adam dove sei? E Adam risponde, cosa dice? Vayomer, disse Adamo, Adam Arishon, et kolcha shamati bagan, sentii la tua voce o il suono del tuo cammino, tra virgolette. Nel giardino, Bagan, va Ira, ed ebbi timore o paura, perché? Chi è Roma nohi, poiché sono nudo, va Echave, mi sono nascosto. Va Yomer, il Signore disse, mi higidlecha chi è romata. Chi è che ti ha detto che sei nudo? Fino adesso non te ne sei accorto, adesso te ne sei accorto, perché? Hamin ha'etz asher tzivitiha levilti achol mimenu achalta. Hai forse mangiato dall'albero dal quale io ti ho comandato di non mangiare? Vayomer ha'adam, risponde l'uomo, ha'isha asher natata imadi. È la donna che tu mi hai dato, hinatna li. È lei che mi ha dato il frutto dell'albero, va ochel, e io l'ho mangiato. Kadosh Baruch Hu si rivolge a Chava, la donna, e la donna anche dice, dà la colpa anche a sua volta ad un altro, ancora, Hanachash Ishiani Vauchal, è il serpente che mi ha convinto, mi ha, per così dire, trasportato in questo, e ho mangiato. Parola chiave, se c'è qui una Torah, credo che ce ne sia una. Allora, qui nel versetto 'scritto così. Come dicevo, lei mi ha dato, Adamo dice di Chava, lei mi ha dato dal, è stata lei a darmi i frutti dell'albero e ho mangiato, e anche la donna dice, il serpente mi ha tratto in errore e ho mangiato. Qual è la parola che dice e ho mangiato? Va ochel. Ora, chiunque ha vissuto in Israele o che parla l'ebraico, come si dice ho mangiato? Benissimo, achalti. Il termine va ochel può essere inteso in due sensi. Achalti è il senso passato, non può essere detto in un'altra maniera. Ma va ochel può anche significare non solamente passato, come è il senso letterale qui, ma anche futuro. E mangerò. Perché usare un termine che ha un doppio senso? E non un termine che è più chiaro, che parla del passato. È quasi come se loro dicessero ho mangiato e rimangerò, ho peccato e peccherò nuovamente. Molto dura come cosa. Ma questa non è una incomprensione o una non chiarezza nel pasuk, nel versetto. Se guardiamo nel Midrash Rabbah, il Midrash lo dice, da questa interpretazione, ed è citato qui nei fogli, Bereshit Rabbah dice ve'achalti en ketiv kan, non è scritto qui e ho mangiato, ve'achalti, in un modo più chiaro, e la va'ochel, bensì è scritto va'ochel, che significherebbe, dice il Midrash, achalti be'achalti, ho mangiato in passato, va'ochel, e mangerò ancora in futuro. Significa che in quel momento Adam e Chava si sono accorti di qualche cosa che fino in quel momento non si erano accorti, e cioè che da questo momento in poi le cose sono cambiate. Non si torna più indietro. Adesso si è aperta una nuova situazione che è diversa dalla situazione che esisteva fino a questo momento. Con il mangiare quei frutti che non dovevano mangiare, sono diventate persone diverse, sono diventate più deboli, si sono accorti della debolezza, nel senso che quando ti dai al peccato ti rendi conto di non essere più in totale controllo di te stesso, e quindi in qualche maniera ti vendi a qualcosa o diventi prigioniero di qualche cosa. Quello che oggi chiamiamo la dipendenza. Stesso concetto. Allora, quando dicono va ochel, che allude anche al futuro, rimangeremo, è come se dicessero ci accorgiamo che è inevitabile qualche errore. Una volta entrati nel problema, nel futuro è quasi sicuro che si ricasca in un problema. Allora, questa cosa non è molto confortante. Se questa è la situazione, come se ne esce fuori? Allora bisogna capire che questa è una chiave che indica il problema. Sicuramente si può anche trovare una chiave che indica la soluzione. E approfondendo questa stessa storia, la storia di Adam e Chava che cascano e inciampano nel peccato in quella situazione, forse si può trovare qualche chiave. E come vedremo alla luce degli insegnamenti del Rebbe, alla luce degli insegnamenti della Hasidut ed altre fonti che vediamo. Innanzitutto questa storia, come abbiamo tutti visto nel momento in cui ogni anno si legge la Parashà di Bereshit, è una storia molto strana. È una storia poco comprensibile, in particolare quando si va un po' a fondo, perché noi lo leggiamo nella Parashà, in particolare come era quest'anno, che finisce Simchat Torah, subito si legge Bereshit, e poi domenica è già Noach, lunedì è già... non c'era il tempo di approfondire, però approfondendo un pochino, la storia del peccato del Etz Hadaat, dell'albero della conoscenza, è una storia molto difficile da capire, e addirittura se si guardano i commentatori, anche i commentatori classici della Torah, molti di loro non la commentano proprio, oppure dedicano poche parole, perché evidentemente è una cosa molto profonda e molto difficile da capire. A Barbanel ne parla a lungo, ma lui spesso dà più attenzione a concetti che i commentatori più classici evitano a volte, se si può dire. Ma troveremo ora qualche fonte nel Rambam, nel Maimonide, nel Moreh Nevuchim, nella sua opera La guida per i perplessi, dove si può evincere qualche chiave. Allora, la prima cosa, che sicuramente molti di voi sapete, secondo come spiegano anche i Midrashim, ma poi guardando bene la cronologia delle cose nella Torah, la cosa è abbastanza implicita, anche se non esplicita, è che tutta la storia di questo peccato è accaduta molto rapidamente. Molto rapidamente significa entro 3 ore dalla creazione dell'uomo e della donna. Loro sono stati creati il pomeriggio o dopo pranzo del sesto giorno della creazione, del venerdì della creazione. E ancora prima che entrasse lo Shabbat, già era accaduto tutto. I maestri arrivano, dopo un calcolo, un approfondimento, a questa cosa delle 3 ore. Però è sicuro che comunque entro Shabbat, quindi più di tanto non poteva essere. In breve, ricapitoliamo. Sono stati creati. Prima era stato creato l'uomo, poi HaKadosh Baruch Hu ha fatto conoscere all'uomo tutti gli animali, e poi si è reso conto di essere solo, e HaKadosh Baruch Hu ha creato la donna, e poi gli ha dato le istruzioni. Questo è il vostro giardino, questa è la vostra villa, questa è la vostra abitazione, tutto va bene per voi per ciò che riguarda il vegetale e il vostro nutrimento, tranne che questo albero qui, che è Tzadat, il albero della conoscenza del bene e del male, Tovara. Passano pochi minuti e arriva lo Yetzer Hara, rappresentato dal serpente, e va da Chava, dalla donna, e dice: Forse ha detto il Signore che è vietato mangiare tutti i frutti del giardino? Kol etz hagan? Chava dice, no, non è vero. Possiamo mangiare i frutti del giardino. Solamente quell'albero, quell'unico albero che... E lei era molto religiosa, tra virgolette. Allora voleva non dire non solamente è vietato mangiarlo, è vietato toccarlo addirittura. Cosa che non era vera. Il Signore non aveva detto che era vietato toccarlo, solo vietato mangiarlo. Allora i Midrashim raccontano che il serpente dice, ma davvero credi che mangi un frutto e muori? Non è questo, è solo che se voi mangereste questo frutto, se doveste mangiare questo frutto, allora cosa accadrebbe? Che diventerete più intelligenti, più chachamim, e sarete sul livello del divino. E questa è una cosa che il Signore vuole evitare. E allora, per provare le sue parole, per dimostrare che avesse ragione, il serpente cosa fa? Spinge la Chava, la donna, verso l'albero, facendola toccare l'albero. Lei aveva detto che chi la tocca muore, e non è morta. Dice, vedi, puoi anche mangiare. Allora, lei ha pensato, beh, se io mangio, effettivamente, poi se non è come dice il serpente, muoio, allora ci sarà un'altra donna per mio marito. È meglio che mangia anche lui. Allora lei ha mangiato solo insieme al marito. Come dire, se non vado io non vai te, se vado io vai anche te. Solo una cosa prima di proseguire. Qui stiamo parlando di un momento in cui non è che solamente due persone hanno sbagliato. Qui quello che è accaduto davvero è che tutta l'umanità ha sbagliato. Che loro erano tutta l'umanità al momento. Allora se pensiamo in proporzione cosa significa? È una cosa estremamente importante. Non è qualcuno ha fatto un errore, tutta l'umanità insieme ha sbagliato. E un'altra parentesi che vorrei inserire qui, solo molto brevemente, l'importanza di tenersi a quelle che sono le istruzioni e non aggiungere. Perché accade molto spesso che noi pensiamo di fare meglio. L'Alahà richiede questo. Io per essere sicuro faccio un altro chilometro, faccio un altro metro rispetto a quello che mi chiede l'Alahà. Non è una cosa positiva. Anzi, in questa storia era in modo estremo, ma anche in modo meno estremo, questo atteggiamento potrebbe avere delle conseguenze negative. Per il rispetto stesso della Torah e dell'Alaha. Questa è una parentesi, ci si potrebbe anche approfondire magari in un altro momento. Però è una cosa molto importante. Ora, tornando alla nostra storia, è, come dicevo prima, molto strana. Cosa significa? Adam e Chava non sapevano che esisteva il bene e il male? Erano delle persone, scusate il termine, ma erano stupide? Cosa significa? Non capivano che c'era il corretto e lo scorretto? Se è così, qual era la differenza tra loro e gli animali? Cosa faceva di loro gli esseri intelligenti, esseri umani? E poi il fatto stesso che Dio ha comandato e ha detto non mangiare questo albero significa che avevano qualcosa che è bene e qualcosa che è male. Quello che potevano fare e quello che non potevano fare. Allora già c'era il bene e il male. Qual è la novità che si rivela nel momento in cui mangiano quel frutto? Dall'altra parte è evidente che c'è qualcosa che dovrebbe sì rimanere nascosta da loro e che invece mangiando questo frutto, questo qualcosa non è più nascosto. Ma non è ben chiaro di cosa si tratta quando si legge così. Allora leggiamo insieme un piccolo brano proprio del Moreh Nevuchim, della guida dei perplessi di Rambam del Maimonide. Il Rambam dice: qualcuno mi ha posto una domanda, Ikshali ish chacham ze shanim kushya gdola. Già da anni che un uomo intelligente, chacham, se il Maimonide lo chiama un chacham, significa sicuramente era abbastanza colto, e dice, Yera'e mipshuto shel katuv, sembrerebbe leggendo il senso letterale dei versetti, in questo contesto, che a kavana rishon abba adam, che l'intenzione originale nella creazione dell'uomo, che dovrebbe venire fuori l'uomo, l'umanità, come altri esseri viventi, altri animali. En sechelo, senza avere cervello, cioè un modo di approfondire, intelligenza, velo machshava, non pensiero, velo yavdil ben atovu ben ara, e che quindi non potrebbe questo essere distinguere tra il bene e il male. Così sembra, come dicevamo, cosa significa? Vekasher himra rezon Hashem, quando questo essere si ribellò contro la volontà del Signore, quindi non seguì, non ubbidì, e vialo meridato ze hashlemut gadola miuchat be Adam. Questa sua disubbidienza gli portò un regalo di diventare intelligente. Così sembra leggendo la storia. Dice: questa cosa non ha nessun senso. Com'è possibile? Zeppelle, questa cosa è una meraviglia, cioè nel senso non si capisce. Sheyea onesh al meridato, la punizione, la conseguenza per la sua ribellione, tra virgolette, il suo non ubbidire le istruzioni divine. Tet lo shelemut. La punizione, tra virgolette, è che gli viene data una completezza che gli mancava prima. Shelo haitalo, che prima non aveva, vehu hasechel, ed è proprio l'intelligenza. Il Maimonide scrive, en hadavar che Moshe chashavto, così come tu mi hai posto questa domanda, non è così come credevi. Chi ha sechel, l'intelligenza ce l'aveva già da prima. Hishpia Hashem ala Adam, il Signore concesse già da prima l'intelligenza all'uomo. Kode meridato, prima che lui va contro il volere del Signore. Ed è proprio per questa intelligenza che l'uomo è definito come immagine e somiglianza del Signore. Ubishvilo, è proprio per questa intelligenza, Neemar è detto, Shehu Bezelem Elohim, che è creato in immagine del Signore, Ubidmuto, e nella sua somiglianza, Ubiglalo di Berito, e per questa sua intelligenza il Signore si interpellò con lui, Vezivauto, gli diede delle istruzioni. Quindi Rambam dice innanzitutto, non è giusto leggere i versetti in questa maniera. Però questo non risponde alla domanda, allora cosa significa che non sapeva e poi sapeva? Ora vedremo. Secondo aspetto, che diventerà la chiave insieme al primo di questa storia, quando leggiamo la storia vediamo che tutto, la storia del peccato di Adamo e Chava, tutto gira intorno al loro sentirsi nudi, al loro accorgersi della propria nudità e quindi il nascondersi e il vestirsi, tutto legato a questo. La prima cosa che la Torah dice nel momento in cui hanno peccato è si riconobbero come nudi e si vergognarono, vait boshashu. Prima era veloid boshashu, prima non si vergognarono, ma poi si accorgono. Prima la busha, la vergogna, non c'era. Perché? Noi abbiamo un senso naturale di pudore nei confronti della nudità, perché loro non ce l'avevano. Non c'era il male, ma abbiamo detto prima che Cosa significa non c'era il male? C'era qualcosa che, non, che dovevano non fare, quindi quello era il male. Quindi cosa significa non c'era il male? Per loro tutto il corpo era solamente un veicolo per trasmettere, per essere un canale, per il volere di Hashem. Quindi era solo il contenitore dell'anima, un modo per esprimere l'anima, per esprimere la Kedusha. Allora che differenza c'è tra la mano, la gamba o un'altra parte del corpo? Quando mettono in atto quello che è necessario per servire il Signore, c'è nessuna differenza da quel punto di vista. E quello era il livello al quale erano arrivati nel momento in cui sono stati creati, nel momento in cui sono stati nati, sono nati, tra virgolette. Quando peccano, vatifakachna e neishenehem, si aprirono i loro occhi. E presero le foglie del fico e si coprirono. Il peccato portò la vergogna. Perché? Questa è la seconda questione. La prima questione è: cosa significa che prima non sapevano e adesso sapevano? Cos'è che non sapevano? Non erano stupidi, erano molto intelligenti. La seconda cosa è: com'è che il peccato fa nascere questa vergogna? E la terza cosa è, adesso vedremo, forse la più importante, che diventa la chiave per le altre due. In che maniera è riuscito il serpente, il famoso serpente, davvero a convincerli a cambiare idea, a vedere tutto in maniera diversa rispetto a come lo vedevano prima? Cos'era la strategia del Nahash, del serpente, dello Yetzer Hara? Leggendo la storia in maniera semplice e la rapportiamo alla nostra esperienza di vita, non sembra una cosa così difficile, perché tutti noi sappiamo che a volte dobbiamo prendere delle decisioni e sappiamo, o nonostante sapessimo che una decisione, cioè decidere in una maniera potrebbe essere meglio e decidere in un'altra potrebbe essere peggio, a volte, come si dice, è più forte di me, oppure siamo solo esseri umani, ci sono tante cose da dire, alla fine spesso la decisione non è quella giusta, anche se sappiamo che non è quella giusta, e capiamo che siamo deboli. Quando una persona dice è più forte di me, sta dicendo sono debole, c'è qualcosa che a volte, forse non sempre, ma a volte è più forte di me. Quando una persona dice alla fine siamo esseri umani, cosa intende dire? La stessa cosa. Siamo deboli. Ma rapportato a Adam e Chava non è così semplice, perché effettivamente loro non erano così deboli come noi possiamo guardare rispecchiato dentro di noi, e siamo più deboli di loro. Loro non erano così deboli. Adam e Chava sono considerati, anche dopo che hanno fatto il peccato, delle grandissime figure a livello morale, a livello spirituale. Innanzitutto, ma Yetzir Kapav Shel HaKadosh Baruch Hu, c'è scritto, sono formati dalle mani di HaKadosh Baruch Hu, creati in maniera diretta da HaKadosh Baruch Hu. Prodotto diretto di HaKadosh Baruch Hu è qualcosa di particolare. Ok? La loro Kedusha, data da questa creazione da parte diretta di HaKadosh Baruch Hu, si può dire in un certo senso è più vicina agli angeli che agli uomini. C'è un brano nella Gemara, nel Talmud, nel trattato di Bava Batra, non so se è citato qui, Bava Batra Nun Chet, non credo che sta sul foglio, comunque ve lo cito. Si racconta di uno dei maestri, Rabbi Banna, che lui andava a segnare i punti esatti del luogo di sepoltura di figure molto importanti, che era perso era persa la tradizione esatta del luogo, Il motivo tecnico che si segna un luogo di sepoltura è per evitare che un Kohen diventi impuro passando per quel luogo. Allora c'è scritto che lui, la Gemara racconta, Rabbi Banà andava e misurava i resti di grandi figure. È andato a Hebron, al luogo di sepoltura di Abraham, Isaac e Jacob, e misurava il luogo e metteva dei paletti o quello dei segni perché si sappia esattamente dov'è. Allora c'è scritto che è andato da Abraham, è andato da Isaac, poi è andato da Jacob. La Gemara racconta, quando entrò presso il luogo di sepoltura di Jacob e fece lì quello che doveva fare, segnò il luogo, Yatz'a bat kol ve'amra, uscì fuori una voce celeste e disse, annunciò, Ra'ita et Yaakov, tu hai visto Yaakov, Shehu me'en dmuto shel adam arishon, che era simile fisicamente, c'è scritto che Yaakov Avinu era molto simile, il suo volto era simile al volto di Adam arishon. Allora dice, questa voce sta dicendo, tu hai visto Yaakov, però non potrai vedere, non hai il permesso in Harashai, non hai il permesso di vedere Adam Arishon. Cioè, però devo misurare per segnare i luoghi di sepoltura. Allora la voce celeste dice, la stessa misura che hai visto di Yaakov, Adam Arishon è uguale. Si somigliavano completamente. È come se dicesse il livello spirituale di Adam Arishon è tale che tu non puoi accedere al suo luogo. Questo è dopo il peccato, non prima. Quindi immaginiamo prima. Era qualcosa di particolare. E ciò diventa ancora più difficile da capire alla luce di quello che dicevamo prima, che non si sono neanche trattenuti per 3 ore. Il famoso commentatore Siftei Cohen sulla Torah, Shach la Torah, cioè cos'è la cosa che ha rotto la loro potenza spirituale che si sono dati a seguire il consiglio dello Yetzer Hara, del serpente? Molti di noi che non abbiamo avuto la direttiva in maniera diretta da Kadosh Baruch Hu, grazie a Dio riusciamo in molte cose a non seguire il Yetzer Hara. E loro che hanno ricevuto l'istruzione in maniera diretta da Kadosh Baruch Hu non si sono potuti trattenere. Cioè il Siftei Cohen, il commentatore che cito, spiega che in realtà il divieto era in vigore solamente per quelle poche ore. E quando sarebbe entrato lo Shabbat non ci sarebbe più stato il divieto. Cosa che rende ancora più difficile la comprensione di questa, appunto, di questa situazione. Siamo rimasti con un po' di perplessità. Allora, una storia. Pochi anni fa, a Francoforte, in Germania, un uomo d'affari israeliano, si chiama Moshe Erlanger, si trovava a Francoforte, ma perché per affari si trova spesso fuori da Israele, però per le feste sono sempre a casa in Israele. Un giorno, una volta, 2, 3, 4 anni fa, quello che è, recente, abbastanza recentemente, si è trovato in condizioni di non poter tornare in Israele a casa per Kippur, ed era molto risentito da questa cosa, però alla fine non poteva fare niente, e si è rivolto alla comunità ebraica di Francoforte, si è informato dove il tempio, eccetera, e si è trovato la sera di Kippur, Kol Nidre, Kol Nidarim, a Francoforte. Lì c'è un tempio abbastanza importante, grande, e chiaramente Kippur, come in tutto il mondo, il Tempio era pieno, parliamo di circa 2000 posti, luogo, Tempio imponente, grande, pieno, la sera di Kippur. Vede che sale in Teva un giovane Chazan, un Chazan professionista, che lo portano da Israele ogni anno per fare la Chazanut di Rosh Hashanah e Kippur. Dice, però ho sentito tanti Chazanim nella mia vita, non ho mai sentito una cosa simile. Sì, ha una bella voce, ma non è quello che mi ha preso. È proprio una tefilà così intensa, così sentita profondamente, che proprio tutti erano portati alle lacrime, alla profondità nella partecipazione in questa tefilà. Ci sembrava proprio un bambino che sta piangendo davanti ai suoi genitori, proprio come è scritto, ma come è difficile vedere sempre nella realtà. Ed era rimasto molto molto impresso, molto partecipato, eccetera. E dopo la funzione, dopo la tefilà, andò a salutare il Chazan, che si chiama Tzadok Greenwald, di Bnei Brak, e gli dice, non ho mai sentito un Kol Nidre così, non ho mai partecipato soprattutto. Com'è, da dove hai preso questa grande forza, questa grande intensità? Allora gli dice, guarda, ti spiego, c'è un motivo. Dice, io sono già un po' di anni che vengo a Francoforte per essere qui il Chazan, durante appunto le festività solenni. E, per me è sempre una cosa sentita, è sempre stata una cosa sentita, perché sono figlio di sopravvissuti alla Shoah, e venire a Francoforte, proprio in Germania, e ripercorrere tutto, e poi gran parte di queste persone che partecipano oggigiorno sono non ebrei tedeschi, ma ebrei che provengono dall'ex Unione Sovietica, situazioni molto particolari. Allora già era qualcosa che... Però un giorno, una volta, un Kippur è successo qualcosa di particolare qui a Francoforte. Dice, cos'è successo? E niente, era un Kippur, come tutti i Kippur, abbiamo fatto tutto quello che andava fatto, era giunta la fine della giornata del Kippur, dopo lo shofar, dopo tutto. E io chiaramente potete immaginare un Chazan che tutto il giorno è impegnato con la Chazanut di Kippur, è una cosa abbastanza stancante fisicamente. E io sono uscito dal Tempio. Esco dal Tempio, ed ero l'ultimo a uscire, vado verso l'appartamento che era stato affittato per assaggiare qualcosa, bere qualcosa. Un tratto mi viene incontro all'entrata del tempio un uomo su una cinquantina, sessantina d'anni. E mi dice con un accento russo forte, com'è che è chiuso? Non è forse Kol Nidre stasera? Ai ai ai, mi sono subito accorto che poveraccio questa persona ha sbagliato di un giorno, che era ieri sera Kippur, non stasera, è finito. E gliel'ho detto. Guardi, mi dispiace dirglielo, però ha fatto un errore nel calendario. Cioè, questa persona si è messa la testa nelle mani, si è messa a piangere con un bambino piccolo. E mi ha detto, io non so niente di ebraismo, non so... Solo una cosa so, che mio padre mi ha detto, buonanima, 50 anni fa, che se voglio rimanere legato al mio popolo, devo andare con Nidre al Tempio e partecipare a Kippur. Questo è il tuo legame con il tuo ebraismo e con il popolo ebraico. E dice, ora come faccio? Cosa significa che ho mancato la sera di Kol Nidre? Allora il Chazan Greenwald racconta, io avevo fame, ero stanco, però mi vedo davanti a una situazione così, non potevo fare diversamente. Gli ho detto, vieni, entra dentro al Tempio. Ha riaperto il Tempio, si è messo il kittel, l'abito bianco, si è messo il tallet, è salito sulla tevà e non c'era nessun pubblico, c'era solamente una persona. Ha iniziato a rifare l'ancor di Kol Nedarim, di Kol Nidre della sera prima. E non doveva convincere nessuno perché non c'era nessun pubblico. Ha pregato proprio dal cuore, come se riniziasse da capo tutto il Kippur. Dice, io ero con... Lui era con suo padre, che i suoi ricordi di suo padre che gli diceva di andare Kippur al Tempio. E io ero col mio padre in cielo e basta, c'eravamo solo noi due. Allora dice, da quel momento il Kol Nidre per me è tutt'altra cosa. E ogni volta che salgo in Tevà è come se non ci fosse nessuno. Ci sono le generazioni che ci hanno preceduto, c'è il nostro padre in cielo e lì mi si apre il cuore. Questa era la storia che raccontava Erlanger del Greenwald. Greenwald è un giovane Chazan, lo potete incontrare a Bnei Brak. È una storia che è vera. Allora la domanda è, se fossi io al suo posto, se fossi tu, qualsiasi persona, cosa sarebbe stata la nostra decisione in quel momento? Non stiamo parlando di grandi tzadikim, maestri della generazione, persone come me e te, che sono poste davanti a un bivio morale, di più o meno importanza, però sempre è un bivio morale. La vera domanda qui, che fa sì che io prenda una decisione, è chi è che decide? Decide la mia neshama, decide la mia parte positiva e divina, la kedusha che c'è dentro di me, o si mette nel sedile del conducente della mia persona, lo yetzerara, e conduce. Questa è la domanda. Nel Tanya l'Alter Rebbe spiega che ognuno di noi ha in realtà due identità. A volte crediamo di essere schizofrenici. Non siamo schizofrenici, abbiamo davvero due identità. Una tira verso un lato e l'altra tira verso un altro lato. E la domanda, noi abbiamo però il potere di far mettere nel sedile del conducente una di queste due identità. Come vogliamo, secondo la nostra volontà, la nostra forza, eccetera. Allora, quando veniamo posti davanti a una situazione dove appunto dobbiamo decidere, come dico prima, un dilemma morale, che ripeto, di minore o maggiore importanza, può essere una cosa stupida, folle, piccola, ma è sempre lo stesso dilemma. Il dilemma è a chi diamo, quale voce facciamo sentire dentro di noi. Una voce che dice cosa vuole, cosa vorrebbe Hashem, quale sarebbe la volontà di HaKadosh Baruch Hu in questa situazione? Che questa è una voce altruistica, è una voce non egoistica. L'altra voce che potremmo far sentire dentro di noi è cosa mi fa comodo, cosa mi conviene, cosa ha senso per me a lungo termine. Tante considerazioni. Quindi una voce, ricapitolando, potrebbe essere cosa è giusto e l'altra voce cosa è comodo. Non sempre la stessa cosa. Anzi, molto spesso sono cose opposte. Quello che è giusto è quello che è comodo. Quello che bisognerebbe fare è quello che è facile fare o non fare. Se mi abituo a dar voce al lato che chiede cosa è comodo per me, cosa conviene per me, allora questa abitudine fa sì che è quello ciò che diventa importante nella mia vita. Se è quello ciò che diventa importante nella mia vita, allora tutto il resto è meno importante, significa che in fondo non c'è moralità, perché qualsiasi cosa che mi impedisce di arrivare a ciò che mi fa comodo, a ciò che mi conviene, è solo qualcosa che deve essere superato. Ho evitato, ho distrutto addirittura. Adam e Chavà sono stati creati in una maniera, come dicevamo prima, creati dalle mani di Hashem, quindi la loro creazione a priori, nel momento in cui sono nati, era tale da far sì che loro, automaticamente, la voce che parlava dentro di loro era la voce della Kedushah. Non che non sapevano che esiste il male, ma il male era una teoria per loro, non era una cosa pratica. Esiste il male, ma non c'entra niente con me. È qualcosa di cui conosco, di cui ho sentito parlare, ma non sono io. Non è proprio al mio interno, non fa parte della mia esistenza. Com'è possibile? Ognuno di noi basta pensare a un modo di vivere in maniera estrema, come dire se uno diventa uno che commercia con la droga, ok? È fattibile, chiunque vorrebbe potrebbe farlo, non è che non è fattibile, basta conoscere le persone giuste, basta entrare nel giro giusto e si può fare. Non è una cosa impossibile, però ma la maggior parte delle persone normative pensano una cosa così, dicono, beh, sai cosa, sono brutti tempi, forse entro nel commercio della droga. Una persona normale non pensa così. Sappiamo che esiste, sappiamo che c'è chi ci casca, ma non è una cosa a cui diciamo, ok, questo sono io. È esterna alla nostra realtà. Possiamo forse usare questa metafora per dire, Adam e Chavà sapevano che esisteva il male, che c'è lo Yetzer Hara, che ci sono le tentazioni e il male, eccetera. Ma non era nella loro realtà. Era una cosa superficiale, non interiore dentro di loro. Quello che è successo al momento in cui invece tutta l'umanità ha peccato, quando Adam e Chavà hanno peccato, è successo che è diventata una parte della loro realtà. Ed ecco che la loro vita e la nostra vita non è mai più tornata a quello che è stata prima. Perché è stato inserito all'interno della realtà umana quel male che prima era solamente superficiale, solamente esteriore, diventa interiore. Il discorso è che questa cosa è avvenuta in maniera estrema, fino al punto che delle due voci di cui parlavamo, quella prevalente è quella che non dovrebbe essere. Per natura, la voce che parla, il conducente che si mette nel sedile, è l'altra parte, quella non voluta. E noi dobbiamo lottare, andare contro corrente per far sentire la voce voluta. Fino a questo punto è stato l'effetto di quello che è accaduto in quei momenti. Cosa significa che quella voce è quella prevalente? È che è quasi impossibile per noi toglierci totalmente dalla psiche proprio del egoismo. Ma non egoismo nel senso estremo, io sono tutto, io sono il più grande, il più intelligente, il più forte. Semplicemente il coinvolgimento della persona, del io della persona, dell'identità propria. È impossibile un altruismo al 100% per una persona normale. Noi vediamo tutta la realtà solamente attraverso i nostri occhi, ognuno di noi, i propri occhi. Non c'è modo di vederlo dagli occhi di un altro, o in maniera totalmente staccata da qualsiasi tipo di soggettività. È una cosa impossibile nella nostra realtà. E quindi nel linguaggio della Kabbalah il peccato causa ta'arovet tov v'ra, un miscuglio di bene e di male. Non che prima non c'era il male, ma prima c'era una distinzione tra bene e male. E con il chet e con il peccato avviene un amalgamento, in qualche maniera, che ogni cosa che esiste racchiude sia in parte del bene che in parte del non bene, del male. Il Rambam, tornando al Maimonide, spiega in maniera filosofica molto interessante la differenza prima e dopo. Prima del peccato e dopo il peccato. Dicendo che prima del peccato i dilemmi dell'uomo erano nel scegliere tra verità e falsità. Ciò che è emet, vero, e ciò che è sheker, falso. Questa è una definizione obiettiva. Questa cosa è vera o è falsa? Questo comportamento è giusto, è corretto o è scorretto? Non parla di me soggettivamente, parla della cosa, è obiettivo. Dopo il peccato, da falso e vero, cambia tutta la modalità della visione umana e diventa non più emet e sheker, cioè appunto falsità e verità, ma tov vara, bene e male. Che differenza c'è tra falso e vero o bene e male? Come dicevo, il primo è obiettivo, il secondo è relativo e soggettivo alla persona. Quello che per te è bene, per me sembra male, quello che per te è male, per me sembra bene. C'è una soggettività, una relatività dalla quale non si può scappare in questa situazione. E psicologicamente, dice Rambam, e sono citate qui le sue parole sempre del Moreh Nevuchim, non siamo più in grado a prendere delle decisioni in maniera totalmente oggettiva, obiettivamente. Siamo sempre soggettivi relativi a qualche cosa. E il Alter Rebbe spiega che questo è il motivo per cui l'albero si chiama Etz Hadaat, l'albero della conoscenza che noi associamo con l'intelligenza, ma Da'at non è l'unico termine che si usa in Lashon HaKodesh, in ebraico, per dire intelligenza. Ci sono almeno tre modi di esprimere il concetto di intelligenza, che è Chochmah, Binah e Da'at. Saggezza, comprensione, intelligenza e conoscenza. Perché proprio Da'at? Perché non la prima o la seconda, Chochmah o Binah? Perché l'albero è indicato proprio con questa terza indicazione dell'intelligenza? Non è per caso. È perché nell'ambito dell'intelletto della persona, che appunto è suddiviso in queste tre categorie. Perché è suddiviso in queste tre categorie? Perché il processo mentale di qualsiasi idea che una persona ha e che vorrebbe portare a termine in qualche maniera passa attraverso tre fasi. La prima è la fase embrionale, e qui ci hanno azzeccato quelli che fanno i fumetti quando fanno l'idea con la lampadina, perché se ci pensate è la fase embrionale, la lampadina. In quella fase hai un problema che devi risolvere, approfondisci, pensi, arriva un momento, eureka, ho la soluzione. E lì vicino c'è il tuo amico che dice, allora dimmi qual è la soluzione. No, no, no, no, aspetta, silenzio, devo pensare. Ha detto che hai la soluzione, dimmela, perché devi pensare? Perché la fase embrionale, sai di avere qualcosa, è come un seme, ma deve essere sviluppato. Questa prima fase si chiama nella Kabbalah Chochmah. Il seme dell'idea, che ancora però non è sviluppato. Binah. E appunto Chochmah è associato con l'aspetto maschile. Binah, che è associato con l'aspetto femminile, è lo sviluppo del seme, è lo sviluppo dell'idea in questo contesto. E quindi Binah è definito nella Kabbalah come qualcosa di largo, lungo e profondo. Cioè ci sono definizioni, prima non è definibile. Ora ci sono dimensioni, ci sono definizioni, è un'idea che ha un inizio, un mezzo, una fine, un percorso, un perché. Ok? L'idea è completa. Cos'è la terza fase? Da'at. Se c'è l'embrione, c'è il prodotto sviluppato, cosa manca? bisogna applicare l'idea. Tante belle teorie che sono state anche sviluppate, poi sono rimaste così, sterili, non sono venute a termine. Da'at significa lo sviluppo finale nel senso dell'applicazione dell'idea. Applicazione significa o in un sentimento, sentimento significa legame, perché un sentimento è nei confronti di qualcosa che è al di fuori di te, non è all'interno di te. L'intelletto è all'interno di te, ma il sentimento è relativo a qualcos'altro, a qualcun altro. O in un atto pratico, qualche applicazione, questo significa da'at è il ponte che lega l'idea teorica con qualcosa di applicato, di pratico. Ecco che questo albero si chiama Etz HaDa'at Tovara, l'albero non della Chochmah, della teoria, anche sviluppata nella Binah del bene e del male, ma è proprio il bene e il male applicato, è proprio il sentirlo, il agire nel bene e nel male, purtroppo. Ecco perché si chiama Da'at. C'è una chiara conoscenza perché è vissuta, non è solamente studiata in maniera accademica. È provata sul campo. E quindi il fatto che si chiama Etz HaDa'at, di nuovo, è molto esatto. Non è la conoscenza in generale, è proprio la fase Da'at della conoscenza. Ora possiamo tornare un attimino a cercare di capire quello fenomeno del accorgersi della propria nudità e vergognarsi da questa cosa. Prima del peccato il loro pensiero era totalmente kedushah, era totalmente puro, era totalmente sacro. L'uno vedeva l'altro e nel vedere l'altro era come siamo entrambi dei veicoli, dei canali, perché la volontà di Hashem passi attraverso di noi e si effettui quello che deve essere effettuato per la sua volontà. Non c'era nulla d'altro nel vedersi a se stessi, nel vedere l'altro. Dal momento del peccato e quindi l'entrata in gioco di pensieri egoistici e l'altro diventa non più solamente un socio nel fare ciò che HaKadosh Baruch Hu vuole, ma un modo per appagare quello che io voglio, e quindi un altro tipo di strumento, allora c'è da vergognarsi, allora c'è da nascondersi, perché adesso ci sono io di mezzo, ci sono secondi fini, che prima non c'erano secondi fini, questa è la differenza, la linea fine è questa. Perché se ho bisogno dell'altro per un appagamento mio, allora significa che in qualche maniera cercherò di controllare l'altro, di avere io il controllo, da entrambi i lati chiaramente, e di rafforzare la mia presenza nei confronti di quella dell'altro, eccetera, eccetera. Queste sono tutte cose che non sono divine, non sono altruistiche, tutt'altro. Ed ecco che cade su di loro questa grande vergogna nel doversi confrontare con la Kedushah di HaKadosh Baruch Hu che si rivela a loro e dice: dove sei? Ah, aspetta, mi devo nascondere, non sono più lo stesso che ero. C'è qualcosa di nuovo, una nuova esperienza che mi ha cambiato, mi ha segnato in maniera molto forte. C'è scritto in alcune opere di Kabbalah che la parola Levush, che significa abito, veste, lavush, busha, vergogna, è legato a vergognarsi. Beged Zardina. Chol meod, masherazziti lomar, quello che volevo dire. Beged, che anche significa abito, livgod, bgida, significa tradire, in ebraico anche moderno. Il fatto che mi devo coprire è per un tradimento. Se non ci fosse nessun tradimento, se fosse tutto lineare, non ci sarebbe nessun motivo di coprirsi, di nascondersi. Sarebbe tutto chiaro. Il fatto stesso di doversi vestire ci ricorda il problema, non la soluzione. Allora come possiamo fare? Come possiamo fare per liberarci un po' da questa situazione? Quando parliamo di Teshuvah significa un po' uscire fuori dalle grinfie dello Yetzer Hara. Com'è possibile, secondo questa visione anche? Nel capire i metodi dello Yetzer Hara è più facile capire come in qualche maniera uscirne fuori. Il Ramban, Nachmanide, Rabbi Moshe ben Nachman, in realtà non commenta molto questa parte, come dicevo prima, molti commentatori la saltano proprio, questa storia, ma lui no, anche non la commenta molto, ma fa alcuni piccoli commenti. Uno dei versetti, è qui citato, il verso 3-6 del Bereshit, dice che nel momento prima di mangiare dal frutto, è al numero 5 se volete vedere nei fogli, Bereshit Gimel Vav 3-6, c'è scritto Vatere Ha'isha, la donna vide chi tov ha'etz le ma'achal, che l'albero è buono da mangiare, vechi ta'ava hu la'enaim, ed è anche bello a vedere, per gli occhi è piacevole, venechmad ha'etz le mare, ed è bello alla vista, cioè vede tutto questo bene, tutta questa dolcezza. Il Ramban dice, Haita sevura, all'inizio lei pensava, quando le è stato detto, questo non si può toccare, credeva che è una cosa pericolosa, brutta, un veleno, samar, samamavet, un veleno di morte. E per questo ci ha detto non toccarlo. Però ora vedo che invece no, non è un veleno. È una cosa molto piacevole, molto bella, molto buona, saporita. In altre parole, l'uomo pensa che il male sembra male, che il male venga con un'etichetta stampata dove c'è il simbolo della morte, il simbolo del veleno. Lei non sapeva che il male c'è, ma sembra bene. Non sembra male. E questo è tutto il problema. Ed è questo proprio il metodo, questa è la modalità di funzionamento degli Yetzer Hara. Gli Yetzer Hara, noi dobbiamo capire, i maestri del Musar approfondiscono molto questo aspetto della psicologia della persona nei confronti del concetto degli Yetzer Hara, che gli Yetzer Hara, per così dire, non dice la verità, non è che è onesto, il suo lavoro è proprio di ingannarci, e questo è il suo compito, questo è il suo lavoro. E quindi ciò che non va bene, ciò che è vietato, il peccato e così via, viene avvolto in bei fiori, un bel pacchetto, eccetera, eccetera, dove è come se percorrendo quella strada, solo che bene può uscirne fuori una vita migliore, più comoda, più conveniente, eccetera, eccetera. Ed è proprio in questo senso che il famoso commentatore Or HaChaim, Rabbi Chaim ben Attar, anche questo è citato, commenta quel versetto che citavamo prima, i loro occhi si aprirono. La reazione immediata dopo il peccato, cosa c'è scritto? Si aprirono i loro occhi e seppero, vayedeu kerumim hem, seppero di essere nudi. Il Or HaChaim dice, Achar she'avru ha'avera, dopo che hanno fatto il peccato, Techef umiyad, immediatamente nifkechu enehem, i loro occhi si aprirono, vihirgishu e sentirono chi erumim hem, di essere nudi, cioè non è solamente la nudità fisica, pirush sheit pashtu mizohar akdusha, sentirono di essere stati spogliati dalla loro kedusha. E aggiunge una frase molto importante che ci fa entrare più nel contesto. Vehen yikre, la stessa cosa accade, lechol rasha, a ogni persona che in quel momento almeno è rasha, cioè che va contro la volontà della Torah, shebigemar ma'aseh hara, nel momento in cui conclude l'atto vietato che non avrebbe dovuto mettere in atto, ma che ha messo in atto, il momento dopo immediatamente yargish, sente, che ha fatto qualcosa che non va. Vikalem be ma'asav, e sente un clima. Yikalem significa busha, vergogna. Cioè fino al momento del peccato sembra che solo con quello possiamo sopravvivere. E subito dopo, immediatamente, ci riconosciamo la verità. E quindi ci sentiamo spiritualmente nudi. Questo è quanto è accaduto con Adamo e Chava. E l'unico modo per iniziare a combattere questa cosa è riconoscere davvero che il male è male. Cercare di non essere fino a quel punto ingannati dallo Yetzer Hara. E questa è una cosa che va fatta in maniera preventiva, non solamente sul momento del dilemma morale, ma in maniera preventiva significa abituarsi a pensare in un'altra maniera, abituarsi al pensiero che ciò che è scontato che sia normale, forse non è così normale. Forse bisogna pensare in maniera diversa dal modo convenzionale che tutto il mondo pensa. E solo per concludere, una persona che ha dimostrato questa cosa in maniera estrema nella Torah può essere nella storia di Yosef, che poi i maestri lo chiamano Yosef HaTzadik. Yosef aveva il problema della moglie di Potifar che voleva sedurlo, ma è abbastanza implicito nelle parole della Torah che anche Yosef era interessato da parte sua, non era solo un problema di lei, era un problema molto grave suo come tentazione. Quando c'è scritto che Yosef venne alla casa di Potifar mentre tutti gli altri erano via per una loro festività pagana, lui sapeva che c'era solo lei, perché è venuto. I maestri dicono, è venuto perché aveva intenzione di andare con lei. Non ce la faceva più a trattenersi. Cos'è che invece ha fatto sì che lui scappasse invece subito dopo da lì? Il Midrash dice, Niret lo demut di Yokno Shelaviv. Gli è venuto in mente una visione del volto del padre. Però i maestri non dicono Uraa et Yaakov Avinu, ha visto Yaakov il suo padre o il nostro padre. Dmut, una similitudine di Yaakov Avinu. A chi era simile Yaakov Avinu? Adam Arishon. Ha visto Yaakov Avinu, ma rispecchiato in Yaakov Avinu ha visto Adam Arishon, ha visto la storia del Tov V'Ra. E si è detto alt! Questo non è un bene, questo è un male. In altre parole, con il Etz Hadaat Tov V'Ra non ci viene trasmesso solo il Ra, il male, ci viene trasmesso Tov V'Ra. E il Tov è posto nel versetto prima del Ra, il bene è posto nel Pasuk prima del male. Sappiamo che tutto ciò che, concludo, sappiamo che tutto ciò che noi facciamo nella nostra vita, in un certo senso viene considerato un tikkun, un rettificare ciò che è il Chet Etz Hadaat, quello che era il peccato di Adam e Chava. E i maestri dicono che nel momento in cui sarà giunto a termine questa opera e questo lavoro, allora sarà conclusa questa parte, questa fase del mondo e il mondo sarà pronto alla venuta del Mashiach. Allora ci auguriamo che sia davvero già giunto e che potessimo già veramente bimerabi amenu tornare tutto a Israele a Yerushalayim con la costruzione del Bet HaMikdash. Amen ken yirazon.